partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viola, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordare.